Maria, andiamo a prendere Rino a casa, lui porta il suo fucile e spariamo ai negri dal suo trattore per divertimento. Noi siamo Gianni e Piero, allegri bevitori, facciamo la vendemmia per fare il bumbì, sugniamo gli albanesi per lavorar da noi, ma non li paghiamo e se rompono gli spariamo. Siamo Gianni e Piero, gente di campagna, siamo dall'osteria, andiamo a prendere Rino a casa, lui porta il suo fucile e spariamo ai negri dal suo trattore. Negri bastardi, bastardi merda.